Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'1 e il 2 di marzo in provincia di Brescia si incontreranno numerosi attori del mondo delle fonderie per discutere del futuro delle leghe leggere nel mondo dell'auto, il quale si trova davanti a un passaggio cruciale. Ormai infatti le emissioni dal tubo di scappamento sono ridotte all'osso, più di così non è che si possa fare, insomma, per rendere più efficiente il motore e per ripulire gli scarichi da inquinanti vari. Per rispettare quindi standard come l'Euro 6 che arriverà dal 2020, che prevede emissioni di CO2 addirittura sotto i 95 grammi per chilometro, l'unica possibilità è proprio consumare meno carburante. E come aveva già intuito Emory Lovins una ventina di anni fa, l'unico modo per riuscirci è fare veicoli più leggeri. Perché? Perché almeno 2/3 del combustibile bruciato a bordo di un'auto sono in ultima analisi direttamente riconducibili al suo peso. Infatti più peso vuol dire più attrito con la strada, i pneumatici si deformano di più e vuol dire anche più inerzia da accelerare e da frenare. Insomma, alleggerire i veicoli non servirà più a ottenere, come si fa oggi, accelerazioni brucianti, ma servirà a ottenere l'omologazione. Ne parliamo con Riccardo Ferrario, che è direttore del gruppo Idra, che ha organizzato insieme a Foundry Star Alliance questo primo forum internazionale sulle applicazioni dei materiali leggeri nell'industria automobilistica. Benvenuto Ferrario. Buonasera Medis e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, senta Ferrario, intanto quali sono le tecnologie e i materiali che sono candidati, diciamo, a sostituire l'acciaio nel mondo automotive? Ma sicuramente c'è tutta la famiglia dei materiali delle leghe leggere di alluminio e di magnesio. Poi naturalmente le materie plastiche, abbiamo le materie plastiche super resistenti, ma abbiamo anche tutte le materie plastiche costituite da compositi e fibre di carbonio. La partita è tra questi gruppi di materiali. È chiaro che oltre al, diciamo, all'alleggerimento intrinseco che viene portato dalle differenze di peso specifico di questi materiali, bisognerà anche tenere poi conto degli aspetti industriali e degli aspetti di costo. Le dico subito che se utilizzassimo le fibre di carbonio potremmo risparmiare il 60% del peso, ma con un 100% di costo in più rispetto all'acciaio. L'alluminio sembra essere il miglior compromesso, perché possiamo risparmiare il 40% del peso, ma spendendo solo il 30% in più. Ecco, oggi dove è più utilizzato l'alluminio o le leghe anche di magnesio all'interno dell'automobile, dove invece si potrebbero pensare di estendere l'uso, a quali componenti? Guardi, oggi abbiamo praticamente componenti in alluminio che riguardano cerchioni, cambio, teste cilindri, blocchi motore, quindi parti della motorizzazione e in alcuni casi parti delle sospensioni. Il grosso boom attuale e futuro sarà l'introduzione di componenti in alluminio per quanto riguarda la scocca, quindi Perfetto. La parte strutturale dell'auto. Ed infine anche la parte estetica, quindi cofani, portiere, potranno essere fatti di lamiera d'alluminio. Ecco, d'accordo. E quindi passeremmo da quanti chili di alluminio oggi ci sono dentro un'automobile? E quanto si potrebbe risparmiare di peso complessivo se immaginiamo appunto di portare all'estremo questo processo di sostituzione? Guardi, oggi su un'auto di media categoria del peso di una tonnellata troviamo circa 150 kg di leghe leggere. Possiamo immaginare che da qui al 2020 si arrivi ad avere 250 kg di leghe leggere, ad avere quindi il peso dell'auto che effettivamente scende. Perché praticamente diciamo che per ogni chilo di alluminio che si va a mettere si sostituiscono 2 kg di acciaio, più o meno. Sì, più o meno è corretto, perché effettivamente il peso specifico dell'alluminio, che è 2,7, è molto più basso del peso specifico dell'acciaio, che è 7,9. Però c'è da tenere conto la resistenza intrinseca del materiale. Quindi ci vuole un po' più di alluminio a parità di volume, diciamo, esatto, meno a livello di peso, se paragonato al peso. Quindi diciamo che rispetto a un'automobile attuale quanto si potrebbe risparmiare? 150 kg, qualcosa del genere? Ma credo proprio di sì, sempre che non si continuino ad aggiungere componenti legati al nostro comfort, alla certo. nostra sicurezza, quello che è successo negli anni precedenti. Cosa cambia in termini di processo produttivo per il mondo automotive? Passare appunto da acciaio e derivati a questo mondo dell'alluminio comporta delle trasformazioni importanti? Certamente sì, ci sono sicuramente degli aspetti molto interessanti che andranno a impattare sul modo di assemblare i componenti dell'auto. Le faccio un esempio pratico che è già esistente. Le strutture dei sedili di una vettura sono storicamente fatte in acciaio elettrosaldato, ma bisogna elettrosaldare 25 parti per costituire il cuscino e lo schienale portante del sedile. In una fusione di magnesio tutto questo viene fatto con due pezzi, ci sarà quindi un pezzo che è il cuscino e un pezzo che è lo schienale, quindi con un grosso risparmio dal punto di vista di fasi di lavoro e di spazi per l'industria dell'auto. Non è detto quindi che utilizzando un materiale più caro questo poi comporti in realtà anche un costo di produzione equivalentemente caro. Cioè singoli pezzi più complicati da fare ma molto più facili da mettere insieme agli altri. Sì, sì, è corretto. In pratica si possono ottenere pezzi più completi che integrano più funzioni in uno stesso pezzo. E di conseguenza, al lato finale, il ciclo produttivo di assemblaggio dell'auto risulta più semplice. Ci saranno meno parti più complesse che integrano più funzioni da assemblare rispetto al passato. Va bene, grazie. Grazie Ferrario, allora. Grazie a lei, Melis, della piacevole chiacchierata. Ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.